30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Dopo una settimana di battaglia per le strade delle maggiori città che hanno causato migliaia di vittime, il governo libico di Gheddafi si aggrappa con tutte le sue forze al potere. Venerdì, giorno di festa musulmana, il governo libico ha aumentato gli stipendi, ha alzato i sussidi per il cibo, ordinato indennità speciali per tutte le famiglie, comunicando la notizia attraverso la televisione di Stato. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera torniamo a parlare di ciò che accade a sud, nella sponda meridionale del Mediterraneo, naturalmente partendo dalla Libia, dove avete sentito in fondo una notizia anche un po' surreale: si spara per le strade della città, l'aviazione bombarda chi protesta e poi improvvisamente si cerca, nonostante tutto e a tutti i costi, di raccogliere consenso. Allora, cosa c'è di meglio di una comunicazione che riguarda gli stipendi, appunto, degli impiegati pubblici, i sussidi per il cibo, le indennità speciali per le famiglie? Insomma, un regime, quello di Gheddafi, pronto a tutto, ma vedremo che non è, ascolteremo nei prossimi minuti, che non è l'unico. In realtà sono dinamiche che ritroviamo in modalità diverse in molti dei paesi che sono coinvolti dalle grandi trasformazioni di queste settimane. Ci aiuta in questo percorso Alberto Negri. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Inviato del Sole 24 Ore, l'abbiamo sentito, lo sentite spesso su Radio 24 nelle varie zone calde, appunto, in questa fase soprattutto del Mediterraneo. Alberto, Gheddafi sarebbe davvero pronto a tutto pur di rimanere al suo posto? Io credo di sì. Credo di sì, purtroppo credo di sì, perché penso che ormai lui sia un po' serragliato in questo bunker, probabilmente quello della caserma di Bab al-Zawiya, quella che fu bombardata nell'86 dagli americani. Non credo che mollerà facilmente questo potere che lui ha preso nel 69 con un colpo di Stato che fu, per la verità, con pochissimi morti e quasi senza sangue, ma non credo che assolutamente lascerà il potere in maniera pacifica. Fu un colpo di Stato, come si direbbe, molto ben organizzato, molto ben ordito. Il passaggio dalla monarchia a questo regime successivo, appunto, non fu quel bagno di sangue a cui assistiamo oggi. Ecco, Gheddafi naturalmente ha serragliato il suo potere, ma quanti altri con lui? I figli li sentiamo spesso in questi giorni citare, fare promesse, ma quanto è grosso la corte del colonnello Gheddafi? Beh, a parte la famiglia, il clan familiare, c'è quello tribale, quello dei Gheddafi, la tribù della Sirte, che è diventata predominante con la sua ascesa al potere. Non lo era tanto nei primi anni, ma lo è diventato sicuramente negli ultimi 10-15 anni. Questa contrapposizione tribale è una delle chiavi, purtroppo, di lettura della disgregazione libica. L'altra è quella della contrapposizione tra Cirenaica e Tripoli. Chi c'è dentro con lui in questo bunker? Beh, sicuramente la famiglia, ma soprattutto gli ultimi due o tre rimasti della vecchia guardia. Lui salì al potere con 12 ufficiali. Pensate che dopo un mese dal colpo di Stato non si sapeva neppure i loro nomi e neppure quello di Gheddafi. Sono rimasti poi al potere per molti anni, la maggior parte di loro sono finiti in esilio oppure in carcere. Il suo numero due per tanti anni, Jallud, è stato emarginato dal potere, e sono rimasti quei due o tre compagni della vecchia guardia, più gli uomini della sicurezza, Abdullah Sanusi, che è praticamente il capo di tutta la sicurezza, due cugini, Hamed Gheddafi, uno di questi è anche capo, anche lui, dei servizi e delle truppe speciali. Questi sono gli uomini che, insomma, più o meno costituiscono il nucleo duro intorno a lui nel bunker. Ecco, noi abbiamo visto, direi tutti, quel Gheddafi pubblico, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto quello delle rinnovate relazioni italo-libiche, che poi sono letteralmente, diciamo, esplose dopo l'accordo importante del 2008 del Trattato di Bengasi. Ma secondo te Gheddafi che tipo di uomo è? Cioè, si avvicina più a quell'immagine anche quasi sorniona del beduino con la tenda, eccetera, oppure è un freddo manipolatore capace di gestire i suoi servizi, il controllo, appunto, poliziesco della sua società? È un uomo dalle molte facce. ce ne sono state tante, delle molte stagioni anche. Quando aveva 17 anni ed era al liceo di Sabra, salì su uno sgabello per arringare i suoi compagni, per fargli sostenere Nasser, allora salito al potere al Cairo. Venne arrestato e espulso da tutte le scuole della provincia, dovette andare a fare il liceo a Misurata. Era un ragazzo giovane ma con un grande carisma, una grande decisione, e soltanto 10 anni dopo, 27 anni, prendeva il potere. Aveva, come dire, un'immagine oltre che carismatica anche di uomo puro, rigido, non corrotto. Questa è stata una delle facce di Gheddafi. Poi ci sono state le altre stagioni di Gheddafi, il Gheddafi populista, il Gheddafi teorico che voleva trasformare la Libia in una sorta di democrazia diretta, in realtà facendo un grande pasticcio con questi comitati popolari, e che non hanno poi portato a niente. Poi c'è un terzo Gheddafi, quello degli ultimi anni, che somiglia molto di più a un attore invecchiato che in qualche modo ripete una parte, una sorta di caricatura di se stesso, forse anche un uomo malato e ora anche disperato. Ecco, a proposito di questo ultimo Gheddafi, nei giorni scorsi lui ha proprio scelto la caserma, bunker, dove ci raccontavi essere raccolto il suo stato maggiore, quella che credo tutti abbiano visto, non fosse altro perché è quella appunto del bombardamento americano della metà degli anni Ottanta. Lui si ritira all'interno di questa struttura distrutta e evoca un simbolo, dice: io sono l'uomo che ha piegato la testa agli italiani, che li ha portati all'accordo di Bengasi, che appunto riguarda non solamente un importantissimo contributo finanziario di oltre 5 miliardi, ma simbolicamente insomma il riconoscimento delle responsabilità del periodo coloniale, ma è anche l'uomo che tutto sommato è riuscito a piegare il Regno Unito, che nonostante fosse stato appunto vittima diretta del disastro, dell'attentato terroristico di Lockerbie e così via. Insomma, orgoglio nazionalista, dice: io sono l'uomo che è stato capace di mettere in riga l'Occidente. Questo tipo di messaggio ha ancora presa oggi nel nuovo Maghreb? Non credo più tanto, perché questa, la novità di questi movimenti nel Maghreb è stata sostanzialmente questa, che appunto la retorica anti-occidentale o in alcuni casi anti-israeliana non è entrata assolutamente in nessuna di queste rivolte, né in quella tunisina né in quella egiziana, e se vogliamo vedere neppure in questa libica, dove ogni tanto vengono anche evocati fantasmi di Emirati Islamici che sono soltanto forse un po' nella fantasia, o saranno di là da venire in un altro periodo, comunque non ora. È proprio questa retorica che non attacca più, cioè le popolazioni del Maghreb e del Medio Oriente vogliono vedere risolti i loro problemi in casa, non vogliono vedere che i loro problemi vengono attribuiti a dei complotti esterni. Questa come dire, teoria del complotto per giustificare i propri mali in casa non attacca più. Ecco, questo probabilmente è un elemento di grande novità nell'opinione pubblica araba, immagino inevitabilmente legata anche al fatto che comunque la comunicazione è molto maggiore. Insomma, in questi anni progressivamente dal nord al sud anche le masse, come si usava dire una volta, dell'Africa del Nord hanno accesso alle informazioni, sono in grado di costruirsi una propria opinione, non dipendono più totalmente dai loro leader. Ma certamente, la società dell'informazione globalizzata che vediamo oggi è arrivata un po' dappertutto. Quello che stupisce è che proprio l'Occidente, che l'aveva tanto propagandata, questa globalizzazione non soltanto economica ma anche dell'informazione, sia stato colto clamorosamente di sorpresa da questi sommovimenti nel Maghreb. Con un po' più di attenzione forse ci si sarebbe accorti che stavano partendo anche un po' più da lontano e che non sono esplosi soltanto nell'ultimo periodo. Diciamo che ci sono stati gli episodi che li hanno innescati. Ecco, io devo dire, a proposito di quanto stava dicendo Alberto Negri, sono rimasto colpito questa settimana nell'ascoltare un sottosegretario agli esteri italiano qui in una delle nostre trasmissioni, che diceva: chi poteva immaginare ciò che stava per accadere. Beh, effettivamente, come dire, è una frase ambigua, ma è anche una frase che dal mio punto di vista sollecita la sorpresa, perché quando arriva dalla Farnesina mi dà la sensazione di dire oddio, allora proprio, come dire, fatichiamo enormemente ad avere un controllo minimo della situazione. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera con Alberto Negri, parliamo appunto di Maghreb, parliamo di ciò che accade a sud del Mediterraneo e c'eravamo fermati su una riflessione sul fatto, Alberto, che siamo sempre un passo indietro. Ecco, non è facile cogliere il momento in cui questi eventi si partono, si avviano. Di certo quello a cui assistiamo è una catena di eventi. Perché non riusciamo, come dire, la sensazione è che non riusciamo a riprendere il controllo degli eventi? Innanzitutto, se il nostro governo fosse quello di Stoccolma, forse con qualche giustificazione ce l'avrebbe. Il problema è che noi siamo con i piedi e la testa dentro il Mediterraneo, oltre che con la borsa, cioè con gli affari. Quindi è abbastanza stupefacente che il nostro governo e la nostra diplomazia, già quando gli eventi erano esplosi, abbia sostenuto fino quasi all'ultimo sia Ben Ali, sia Mubarak, sia lo stesso Gheddafi. Questo avrà delle conseguenze ovviamente. Cosa è dovuto questo? È dovuto secondo me a un paio di fattori. Il primo di tutto è l'appiattimento, una visione conformistica della realtà, cioè non disturbate in poche parole il manovratore, no? Questa è la storia. La seconda è un clamoroso deficit di informazioni e di intelligence da parte dell'Italia in tre situazioni dove l'Italia è un primario partner, cioè è il primo partner commerciale dell'Egitto, da dove tira fuori gas e petrolio, quindi anche in attività strategiche. È il primo partner, o il secondo comunque, della Tunisia, con cui ha un legame storico quasi secolare. E della Libia non parliamone. Ecco Alberto, bisogna dire però che la sensazione è che quello che si può dire per l'Italia si possa dire almeno anche per la Francia e persino per il Regno Unito. Ancora in queste ore i libici si rivolgono all'amico Tony Blair per mediare la situazione. Insomma, in qualche modo evocano quello che dalla fine degli anni 90 i governi occidentali hanno fatto un'inversione impressionante sul fronte Gheddafi. Sì, non c'è dubbio. La Gran Bretagna tra l'altro ha restituito uno degli autori dell'attentato di Lockerbie in cambio di sontuosi contratti petroliferi, la Francia di Sarkozy ha accolto in pompa magna Gheddafi per vendere le sue armi e le sue centrali nucleari. L'Italia però, diciamocelo, ha qualche cosa di più per essere coinvolta. Qualche cosa di più, che sono le vendite di armi, l'acquisto di petrolio, il fatto che Gheddafi abbia comprato attraverso i fondi libici quote strategiche di imprese come Unicredit, certo, e Finmeccanica. Insomma, noi siamo stati la potenza colonialista lì, eppure siamo disinformati. Certo, c'è veramente una, come dire, un paradosso dell'informazione tra il nostro ruolo, e che l'abbiamo citato più di una volta, il trattato di Bengasi del 2008 di fatto rafforza e sottolinea e sottoscrive e libera anche di una serie di retaggi e di problemi tra i due paesi, e il fatto che improvvisamente gli eventi accadono e fonti ufficiali dicono come quanto sia difficile prevedere gli eventi. A proposito di eventi, Alberto, nel frattempo, adesso ci concentriamo, e l'abbiamo fatto anche in questi minuti, sulla Libia, ma intorno la situazione continua a essere dinamica. Da una parte il Grande Egitto, dall'altro la più piccola Tunisia, peraltro oltre c'è l'Algeria, ma lasciamola fuori per un attimo. Ecco, c'è anche un po' il rischio che questi sommovimenti creino una sorta di spazio unico. Quanto sono diverse queste tre situazioni in realtà? Ma in realtà dobbiamo cercare di capire quando si tratta soltanto di una sostituzione in fondo di leadership, di un cambio di regime o addirittura di sistema. Cioè, in realtà in Tunisia abbiamo visto la sostituzione di un leader, non il passaggio da un sistema a un altro. La Tunisia è rimasta la stessa, in poche parole. Cioè, è un piccolo paese di 10 milioni, importante per tanti versi, però insomma non è che abbia cambiato sistema, verranno applicate quelle leggi che ai tempi di Ben Ali semplicemente non venivano applicate, cioè ci sarà una quota maggiore di democrazia, ma insomma la Tunisia non attraversa un cambio di sistema, il paese è omogeneo. In Egitto si troviamo in una situazione un po' più complessa, perché c'è il cambio di una leadership, l'ascesa politica in primo piano dell'esercito. L'esercito in Egitto ha sempre comandato, ma non aveva mai governato, invece adesso è l'attore fondamentale del passaggio, prepara la Costituzione, deve portare a nuove elezioni. Insomma, si sta cercando di capire quale sarà l'evoluzione egiziana, anche con la presenza di un forte movimento islamico come quello dei Fratelli Musulmani, e se questa evoluzione per esempio possa andare in una sorta di direzione un po' alla turca, no? Con l'esercito che fa, come dire, da regista al passaggio, alla transizione da un sistema a un altro. In Libia invece siamo in una situazione molto più complessa. Qui siamo di fronte a uno Stato che è semifallito. Innanzitutto il paese è spaccato in due tra Cirenaica e Tripolitania. È una questione storica. In realtà l'unificazione della Libia avvenne soltanto col colonialismo italiano. La Cirenaica ha una sua storia culturale e religiosa distinta e probabilmente in una nuova Libia vorrà godere di una forte autonomia, se ci sarà ancora una nuova Libia unita. Io mi auguro di sì. E qui si tratta di un passaggio epocale di sistema e della ricostruzione o della costruzione di uno Stato dove le istituzioni sono state perennemente neglette. Questo è il problema. Cioè, negli altri due paesi ci troviamo di fronte a Stati che comunque hanno delle istituzioni che funzionano. Nel caso della Libia no. Ecco, due paesi in cui le istituzioni funzionano e che sarà, diciamo, fondamentale sostenere anche nelle settimane che verranno per tutelare davvero gli interessi nazionali legittimi di ciascuno dei paesi occidentali ed europei. Torniamo ai dittatori, insomma, le leve del ricatto che poi sta emergendo in queste ore sono sostanzialmente, se non sbaglio, tre: petrolio, migrazione, integralismo. Il petrolio, ne abbiamo detto, hai citato alcuni dati, lo ricordo, il 24% del petrolio libico è appunto la nostra leva del nostro personale ricatto, se vogliamo. La migrazione, la Libia è stata fatta diventare, da una serie di accordi politici, di fatto una valvola sulla migrazione africana in Europa. E l'integralismo che lo stesso Gheddafi ha sbandierato ergendosi a baluardo anti-integralista per l'Europa. Sono strumenti che funzionano tutti allo stesso modo, destinati, come dire, a operare ancora nelle cancellerie occidentali? Voglio essere molto chiaro, quella del petrolio e del gas è un'arma completamente spuntata, prima di tutto perché anche un nuovo regime o comunque anche dopo un'interruzione magari di un certo periodo delle forniture, questi paesi devono tornare sul mercato a vendere gas e petrolio per sopravvivere, quindi non hanno alternative. Anche nel breve periodo, oltretutto, la mancanza del petrolio e del gas libico sono assolutamente ininfluenti. Compensate da altri arrivi. Non solo compensati da terribile, ma il fatto che per esempio di produzione di gas ce n'è in abbondanza e c'è stato anche un calo della domanda, quindi assolutamente non è questo il problema. Pensate che durante la guerra del Kippur, quando ci fu un embargo serio, quando non si poteva comprare petrolio, non veniva venduto petrolio, i paesi che ne avevano bisogno lo compravano dai paesi non embargati. Quella era una situazione addirittura limite, quindi questa non è una situazione preoccupante da questo punto di vista. Migrazione. Migrazione, questo è un problema però molto più preoccupante, perché qui si parla di centinaia di migliaia di persone che vagano tra l'Egitto, la Libia e la Tunisia in attesa di andarsene. Però questo è un problema che risponde non a una questione, come dire, contingente soltanto, ma a una questione strutturale e di fondo. Questione strutturale di fondo che riguarda l'atteggiamento che ha avuto l'Occidente nei confronti della sponda sud. In poche parole si tratta di rispondere ai bisogni di popolazioni che hanno costituito e costituiscono per noi una sorta di esercito di riserva della manodopera. Parliamoci chiaro, le nostre aziende tessili, quelle italiane, europee, producono in paesi con stipendi di 60-70 euro al mese, 80 euro al massimo. Cioè, è chiaro che queste popolazioni prima o poi cercano delle alternative. Pensate che un jeans prodotto a Tunisi, che viene venduto da noi in negozio a 150-180 euro, ha un costo di produzione dai 2 ai 4 euro. Non a caso, Alberto, la Tunisia prima della crisi era considerata una delle, appunto, giovani tigre del Nord Africa. Ma siamo in conclusione. Integralismo, terza leva. L'integralismo è assolutamente una questione complessa, però si può dire una cosa. L'integralismo è stato in qualche modo il paravento utilizzato da regimi come la Tunisia e la Libia per giustificare, e anche dall'Egitto di Mubarak, per giustificare che cosa? La repressione di qualunque tipo di opposizione. E l'unica opposizione che poi ha resistito è stata quella all'ombra delle moschee. Quindi è quasi inevitabile che noi ci troveremo di fronte dei movimenti fondamentalisti o radicali, ma forse non nella misura in cui temiamo. Oggi, secondo me, c'è stato anche un cambiamento da questo punto di vista. La situazione magari in Libia sarà particolarmente diversa, ma il fondamentalismo dei Fratelli Musulmani oggi non è il fondamentalismo di 20 anni fa, e questo partito sembra un po' più somigliare alla KP turco di Erdogan che non ai movimenti radicali islamici in stile Bin Laden. Grazie ad Alberto Negri per essere stato con noi, per averci guidato in questa complessità che dobbiamo continuare a osservare, raccontare, cercando di capire, magari appunto per a volte provare anche ad anticipare. A Peter Bescapè in regia, da parte mia un saluto, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre per sabato prossimo.